Capitolo 27. Padre e figli. Le cose a Hamley Hall non andavano affatto meglio. Non era accaduto nulla che potesse mutare lo stato di insoddisfazione in cui lo squire e il figlio maggiore erano caduti. E di sicuro anche solo la prosecuzione della scontentezza ne approfondisce il sentimento. Roger faceva tutto quanto era in suo potere per riavvicinare padre e figlio, ma a volte si domandava se non sarebbe stato meglio lasciarli stare. Infatti entrambi stavano scivolando nell'abitudine di fare di lui il loro confidente, definendo così emozioni e opinioni che se ne espresse avrebbero avuto una minore nitidezza. Il sollievo della vita quotidiana a Hamley Hall era troppo esiguo per aiutarli a scuoterli dalla loro malinconia, e questo influenzava la salute sia dello squire che di Osborne. Lo squire era dimagrito, era come se la pelle e i vestiti gli cadessero addosso, e la freschezza della sua carnagione si era tramutata in strisce rossastre, tanto che le sue guance assomigliavano a mele renette di Urdiston, invece di ricordare una pera Catherine dal lato più vicino al sole. Roger pensava che il padre stesse in casa e fumasse più di quanto gli facesse bene, ma era diventato difficile portarlo a camminare lontano. Egli aveva troppa paura di imbattersi in un qualche segno delle opere di drenaggio incomplete o di arrabbiarsi un'altra volta alla vista del suo dispregiato legname. Osborne era tutto preso dall'idea di ereditare le proprie poesie per la pubblicazione e realizzare così il proprio desiderio di indipendenza. Tra lo scrivere ogni giorno alla moglie, portando di persona le lettere a un ufficio postale lontano, e lì ricevere quelle di lei, e le ritoccare i propri sonetti, eccetera, con estrema pignoleria, e il concedersi occasionalmente il piacere di una visita ai Gibson per godere lì della compagnia delle due gradevoli ragazze, egli non trovava poco tempo per stare con suo padre. In realtà Osborne era troppo indulgente con se stesso, o sensibile, come diceva lui, per sopportare volentieri gli accessi di depressione dello squire o la sua troppa frequente cherimonia. Inoltre, la consapevolezza del proprio segreto metteva Osborne a disagio in presenza del padre. Era un'ottima cosa per tutti che Roger non fosse sensibile, perché se lo fosse stato, ci sarebbero stati momenti in cui sarebbe stato molto difficile tollerare i piccoli scatti di tirannia domestica con cui il padre si sforzava di affermare la propria autorità su entrambi i figli. Una di queste occasioni si verificò subito dopo la sera del ballo di beneficenza di Hollingford. Roger aveva convinto il padre a uscire con lui e lo squire aveva, sul suo suggerimento, portato con sé il sarchiello che non usava da lungo tempo. La loro camminata si era spinta piuttosto lontano. Forse il più anziano dei due aveva trovato eccessivo l'inusitato prolungamento dell'esercizio fisico, poiché, mentre si stava riavvicinando alla casa, diventò, come dicono le balie dei bambini, stizzoso e pronto a ribattere a qualunque osservazione del suo compagno di passeggiata. Roger comprese istintivamente, per così dire, la situazione e la tollerò con la sua solita dolcezza di carattere. Entrarono in casa attraverso la porta principale che si trovava dritta sulla loro traiettoria. Sulla vecchia lastra incrinata di marmo giallo c'era un biglietto da visita con il nome di Lord Hollingford che Robinson, evidentemente in attesa del ritorno di Roger, gli consegnò uscendo di fretta dalla dispensa. «Sua signoria era molto dispiaciuto di non avervi trovato, Mr. Roger, e sua signoria ha lasciato un messaggio per voi. L'ha preso Mr. Osborne, credo, passando di qua. Ho chiesto a sua signoria se volesse vedere Mr. Osborne, che era dentro, pensavo, ma sua signoria ha detto di aver fretta e mi ha detto di porgere le sue scuse». «Non ha chiesto di me?» grugnì lo squire. «No, no, signore, non posso dire che l'abbia fatto. Non avrebbe mai pensato a Mr. Osborne se non gliel'avessi nominato io, signore. Era Mr. Roger che sembrava avere tanta urgenza di vedere». «Molto strano», commentò lo squire. Roger non disse nulla, anche se naturalmente provava un po' di curiosità. Si diresse verso il salotto, non del tutto cosciente che il padre lo stesse seguendo. Osborne sedeva al tavolo vicino al fuoco, con la penna in mano, intento a rivedere una delle sue poesie, mettendo i puntini sulle i, i trattini sulle t e ogni tanto fermandosi a cambiare una parola. «Oh, Roger!» disse quando il fratello entrò. «Lord Hollingford è stato qui, voleva vederti». «Lo so», rispose Roger. «Ha lasciato un messaggio per te. Robinson ha tentato di persuaderlo che fosse per mio padre, così ha aggiunto un junior, Roger Hamley Junior, in matita. Lo squire ormai si trovava nella stanza e ciò che udì lo irritò ancora di più. Roger prese il biglietto ancora chiuso e lo lesse. «Cosa dice?» chiese lo squire. Roger gli porse il biglietto. Conteneva un invito a cena per incontrare Monsieur Gouffre San... le cui teorie su taluni argomenti Roger aveva sostenuto nell'articolo di cui Lord Hollingford aveva parlato con Molly, danzando con lei al ballo. Monsieur Gouffre Saint si trovava in quel momento in Inghilterra ed era atteso in visita ai lettori nel corso della settimana successiva. Egli esprimeva il desiderio di incontrare l'autore dell'articolo che aveva già attirato l'attenzione degli anatomisti comparativi francesi. E Lord Hollingford aggiungeva qualche parola per manifestare la volontà di fare la conoscenza di un vicino, i cui interessi erano così simili ai suoi. Seguiva poi un messaggio molto cortese da parte di Lord e Lady Kemnor. La grafia di Lord Hollingford era indecifrabile, praticamente illeggibile. Lo squire non poté comprendere tutta la prima lettura ed era nervosa a sufficienza per rifiutare qualsiasi aiuto. Alla fine ci riuscì. Così il mio signore, il luogotenente, alla fine si accorge dell'esistenza degli Hamley. Si avvicinano le elezioni, eh? Ma posso dirgli che noi non ci lasciamo convincere tanto facilmente. Immagino che questa trappola sia stata preparata per voi, Osborne. Cos'è questa cosa che state scrivendo a cui il Monsieur francese è tanto interessato? Non sono io, signore, obiettò Osborne. Sia il biglietto che l'invito sono per Roger. Non capisco, disse lo squire. Questi liberali non hanno mai fatto il loro dovere nei loro, miei confronti, non che io lo voglia da parte loro. Il duca di Debenham era solito porgere agli Hamley il rispetto loro dovuto, i più antichi proprietari terrieri della contea. Ma da quando lui è morto e questo cencioso signore liberale ha preso il suo posto, non ho mai cenato a casa del luogotenente. No, neanche una volta. Ma mi pare, signore, di avervi sentito dire che Lord Camon era solito invitarvi, solo che voi preferivate non andare, disse Roger. Infatti, e con questo cosa intendi? Credi che potessi trascurare i principi della mia famiglia e andare ad adulare i liberali? No, questo lo lascio fare a loro. Sono bravi a invitare l'erede dei Hamley quando si avvicinano le elezioni. Vi dico, signore, intervenne Osborne con il tono irritato che talvolta usava quando il padre era particolarmente ragionevole, che Lord Hollingford non ha invitato me, ha invitato Roger. Roger si sta rendendo noto per ciò che è un uomo di primo livello, continuò Osborne, con una spina di senso di colpa nel generoso orgoglio che esprimeva per il fratello. E si sta facendo un nome. Sta scrivendo in merito a nuove teorie e scoperte francesi ed è normale che questo erudito straniero voglia conoscerlo. Perciò Lord Hollingford l'ha invitato a cena. È chiaro come il sole. Abbassando la voce e rivolgendosi a Roger. Non ha niente a che vedere con la politica, se solo mio padre volesse capirlo. Naturalmente lo squire percepì questo breve aparte con la sua disgraziata insicurezza d'udito, che è caratteristica di un principio di sordità, e l'effetto che queste parole gli fecero fu palese nell'aggravata acrimonia delle sue seguenti affermazioni. Voi giovani pensate di sapere tutto? Vi dico che è un lampante trucchetto liberale. E cosa ha a che fare Roger, se è Roger che l'uomo vuole, con l'adulare i francesi? Ai miei tempi eravamo contenti di detestarli e di bastonarli. Ma è proprio tipico della vostra vanità, Osborne, stare a ripetere che hanno invitato vostro fratello minore e non voi. Io vi dico che vogliono voi. Credono che sia ovvio che il figlio maggiore porti il nome di suo padre, Roger Hamley Junior. È molto evidente. Sanno che io non cado facilmente in trappola. Allora si sono inventati questo stratagemma del francese. Ma tu perché ti occupi di scrivere sui francesi, Roger? Avrei detto che fossi troppo intelligente per occuparti delle loro teorie e delle loro fantasie. Ma se è te che hanno invitato, io non permetterò che tu vada a incontrare questi stranieri a casa di un liberale. Avrebbero dovuto chiederlo a Osborne. È lui il rappresentante degli Hamley, se io non lo sono. E a me non possono prendermi. Che ci provino? Oltretutto, Osborne ha una certa aria da monsieur che gli è venuta per quella sua voglia continua di andare sul continente invece di tornare alla sua buona e vecchia casa inglese. Andò avanti di questo passo, ripetendo molto di ciò che aveva già detto, finché non lasciò la stanza. Il primogenito aveva continuato a replicare ai suoi ragionevoli mugugni e questo aveva solo intensificato la sua ira e non appena lo squire se ne fu andato del tutto, Osborne si rivolse a Roger dicendo: «Tu naturalmente ci andrai, vero Roger? 10-1 che domani avrà cambiato idea». «No», rispose Roger piuttosto brusco perché era molto deluso. «Non coglierò l'occasione di arrecargli un dolore. Declinerò». «Non essere così sciocco!» esclamò Osborne. «Davvero? Mio padre è troppo irragionevole! Hai sentito come continuava a contraddirsi? È un uomo come te che debba essere soggiogato come un bambino da...» «Non parliamone più, Osborne», ribatté Roger scrivendo in tutta fretta. Quando il biglietto fu pronto e fatto partire, egli si avvicinò a Osborne e gli posò carezzevolmente una mano sulla spalla, mentre sedeva a fingere di leggere quando invece era arrabbiato, sia con suo padre che con suo fratello, benché per ragioni molto diverse. «Come va con le poesie, vecchio mio? Spero siano quasi pronte per la stampa». «No, non lo so, e se non fosse per il denaro, non mi interesserebbe pubblicarle. Che senso ha la fama se uno non può coglierne i frutti? Andiamo, forza, basta con questa storia, parliamo dei soldi. La prossima settimana andrò su per l'esame che mi vale l'incarico e allora avremo un portafoglio in comune. Perché non penserebbero mai di non accordarmi la posizione adesso che sono senior Wrangler? Io stesso sono abbastanza al verde in questo momento e non voglio turbare mio padre, ma quando avrò il mio incarico mi porterai giù a Winchester e mi presenterai la tua mogliettina. Lunedì prossimo sarà passato un mese da quando l'ho lasciata», disse Osborne, posando le sue carte e fissando il fuoco come se così facendo potesse rievocare l'immagine di lei. «Nella sua lettera di questa mattina mi prega di darti un messaggio molto carino. In traduzione inglese non funzionerebbe, devi leggerlo da te», aggiunse, indicando un paio di righe in una lettera che estrasse dalla tasca. Roger sospettò che l'ortografia di una o due parole fosse sbagliata, ma il loro intento era così gentile e amorevole, ed esse rivelavano un tocco di tale semplice e rispettosa riconoscenza che egli non poté fare a meno di sentirsi nuovamente attirato verso la piccola e sconosciuta cognata con cui Osborne aveva fatto amicizia nell'aiutarla a cercare un qualche oggetto perduto dai bambini che le stava portando a passeggio come ogni giorno a Hyde Park. Mrs. Osborne Hamley, infatti, non era stata altro che una bonne francese, molto bella, molto aggraziata e assai tiranneggiata dai ragazzini maleducati di cui si doveva occupare. Era una piccola orfana che aveva affascinato la fantasia di una famiglia inglese in viaggio, portando in hotel a Madame alcuni articoli di lingerie e subito costoro l'avevano assunta come bonne per i loro figli. Un po' come se lei stessa fosse un giocattolo o un animaletto e un po' perché ai bambini avrebbe fatto tanto bene imparare il francese da una madrelingua dell'Alsazia. Dopo un po' la signora, presa dal fermento e dalle gaiezze di Londra, aveva smesso di pensare particolarmente a me. Ma la ragazza, benché sentendosi ogni giorno più sola e abbandonata in una terra straniera, faceva ogni sforzo possibile per compiere il proprio dovere. Un accenno di gentilezza tuttavia era sufficiente a far partire la fontana e lei e Osborne caddero con naturalezza in uno stato di amore idillico, ostacolato rudemente dall'indignazione della madre dei bambini, quando per caso ella venne a scoprire dell'attaccamento esistente fra la propria bonne e un giovanotto di classe sociale completamente diversa. Ahimè, rispose con sincerità alle domande della padrona, ma nel comune buonsenso, né una qualsiasi lezione appresa dall'esperienza altrui, poterono minimamente intaccare la sua totale lealtà nei confronti dell'innamorato. Forse Mrs. Townshend non fece più che il proprio dovere nel rispedire immediatamente, ahimè, a Metz, dove l'aveva conosciuta e dove dovevano risiedere i parenti che restavano alla ragazza. Ma tutto sommato ella sapeva così poco del tipo di persone, del genere di vita cui aveva riconsegnato la sua deposta protégée, che Osborne, dopo aver ascoltato con impaziente indignazione la lezione che Mrs. Townshend gli impartì, quando insistette per andare a trovarla allo scopo di sapere cosa ne fosse stato del suo amore, partì seduta stante e in tutta fretta per Metz e non lasciò crescere l'erba sotto i piedi prima di prendere, ahimè, in moglie. Tutto questo era accaduto nell'autunno precedente e Roger non era venuto a sapere del passo intrapreso dal fratello prima che questo fosse irrevocabile. Poi sopravvenne la morte della madre, che, oltre alla schiettezza di un dolore schiacciante per la scomparsa in sé, aveva provocato anche la perdita di una mediatrice tenera e gentile, che era sempre stata in grado di raddolcire e farsi strada nel cuore di suo padre. Non è sicuro, tuttavia, che persino lei avrebbe avuto successo in questo frangente, già che lo squire puntava in alto, più che in alto, per la moglie del suo erede. Egli detestava gli stranieri e oltretutto temeva e aborriva i cattolici, quasi come i nostri antenati odiavano le streghe. Tutti questi pregiudizi erano rafforzati dalla sua afflizione. Le argomentazioni inermi sarebbero sempre state respinte dallo scudo della sua totale irragionevolezza, ma un impulso d'amore, in un momento felice, avrebbe potuto intenerire il suo cuore nei confronti di ciò che in passato egli detestava di più. Di momenti felici però ora non ce n'erano, e gli impulsi d'amore erano calpestati dall'amarezza del suo frequente rimorso, non meno che della sua crescente irritabilità. Così, ahimè, si ritrovava a vivere in solitudine in un piccolo cottage vicino a Winchester, in cui Osborne l'aveva sistemata non appena era tornata in Inghilterra dopo le nozze e per il cui squisito arredamento si era così gravemente indebitato. Per quegli acquisti, infatti, Osborne consultò il proprio incontentabile gusto invece dei semplici e infantili desideri ed esigenze di lei e considerò la francesina più come la futura padrona di Hamley Hall che come la moglie di un uomo che al momento era totalmente dipendente dagli altri. Aveva scelto una delle contee meridionali perché era lontana dalle regioni centrali, dove il nome degli Hamley di Hamley era ampiamente noto. Non voleva infatti che la moglie assumesse anche temporaneamente un nome che non era legalmente e propriamente suo. Con tutti questi preparativi, egli si era sforzato volentieri di svolgere i suoi pieni doveri nei confronti di lei, e lei lo ripagò con appassionata devozione e ammirata reverenza. Se la sua vanità si fosse scontrata con una limitazione o se il suo mondano desiderio di un voto alto al college fosse stato deluso, egli sapeva dove andare a cercare conforto, da una donna che riversava le proprie lodi finché le parole le si bloccavano in gola per via della rapidità dei suoi pensieri e che somministrava piccole dosi di risentimento su chiunque non riconoscesse e non si inchinasse ai meriti di suo marito. Se, ahimè, desiderò recarsi allo Chateau, che era la casa di Osborne, ed essere presentata alla famiglia, non ne fece mai parola con lui. Agognava e pregava solo di godere un po' di più della compagnia del marito e le buone ragioni che, quando lui era presente, la persuadevano della necessità del suo stare via così a lungo, perdevano efficacia e fallivano quando ella tentava di ripetersele in sua assenza. Il pomeriggio del giorno in cui Lord Hollingford era passato a trovarlo, Roger stava salendo le scale, 3 gradini alla volta, quando a sua volta sul pianerottolo incontrò suo padre. Era la prima volta che lo vedeva dopo la discussione sull'invito a cena alle torri. Lo squire fermò il figlio ingombrando il passaggio. «Hai intenzione di incontrare il Monsieur, ragazzo mio?» chiese un po', affermando, un po' domandandolo. «No, signore». Ho mandato subito James a portare un messaggio in cui declinavo l'invito. Non mi interessa, cioè non ha importanza. Perché? Sei così brusco con me, Roger? Fece il padre dispettoso. Tutti voi di questi tempi mi trattate con rabbia. Direi che è ben dura quando un uomo non può permettersi un po' di contrarietà. Sei stanco e il cuore pesante come me. Ma padre, non mi piacerebbe entrare in una casa dove vi hanno mancato di riguardo. No, no, no, no, ragazzo, ribatté lo squire illuminandosi un poco. Penso di essere stato io a mancar loro di riguardo. Mi hanno invitato a cena ripetutamente dopo che Milord è stato fatto luogotenente, ma io non mi sono mai voluto avvicinare. E questo significa che io non ho portato il loro rispetto. E per il momento non si disse altro. Ma il giorno dopo lo squire fermò Roger un'altra volta. Ho fatto provare a Jem la livrea che non indossa da 3 o 4 anni. Ormai si è fatto troppo robusto. Beh, non è necessario che la porti, giusto? E il figlio di Morgan ne sarà ben felice. Ha disperatamente bisogno di vestiti. Sì, ma chi verrà con te quando andrai in visita alle torri? È buona educazione passare dopo che Lord, come si chiama, si è preso la briga di venire qui. E non sarei contento che ci andassi senza un servitore. Mio caro padre, non saprei che farmene di un uomo che mi cavalca alle spalle. Posso trovare da me la via delle stalle o ci sarà lì qualcuno che si prenda cura del mio cavallo. Non preoccupatevi di questo. Beh, di sicuro tu non sei Osborne. Forse loro non la troveranno una cosa strana. Ma tu devi puntare in alto e andare a testa alta e ricordare che sei uno degli Amley che vivono sulle stesse terre da centinaia di anni. Mentre quelli non sono che dei liberali senza valore giunti in questa contea, sono all'epoca della regina Anna. Capitolo 28. Rivalità. Per alcuni giorni dopo il ballo, Cinzia apparve languida e fu molto silenziosa. Molly, che si era aspettata altrettanto divertimento nel riparlare con lei dell'allegria di quella sera, quanto nella serata in se stessa, fu delusa quando si accorse che la conversazione sull'argomento era piuttosto evitata che incoraggiata. Mrs. Gibson, è vero, era disposta a ripercorrere quel sentiero quante volte si voleva, ma le sue parole erano sempre abiti preconfezionati e non si adattavano mai ai pensieri individuali. Chiunque avrebbe potuto usarle e con un cambiamento dei nomi propri quelle parole avrebbero potuto descrivere qualsiasi ballo. Nel parlarne, ella usava ripetutamente il medesimo linguaggio, finché Molly conosceva a tal punto le frasi e la loro sequenza da innervosirsene. Ah, oh, Mister Osborne, avreste dovuto esserci. Mi sono detta 1000 volte che avreste dovuto esserci, voi e vostro fratello, naturalmente. Vi ho pensato molto spesso nel corso della serata. Davvero? Ora questo lo definisco molto gentile da parte vostra. Cinzia cara, hai sentito ciò che Mister Osborne Hamley stava dicendo? Mentre Cinzia entrava proprio in quel momento nella stanza. Ci ha pensate per tutta la sera del ballo. Allora ha fatto di più che semplicemente ricordarci, disse Cinzia con il suo lento e morbido sorriso. Lo dobbiamo ringraziare per quei bellissimi fiori, mamma. Oh, disse Osborne, non dovete ringraziare solo me. Credo che l'idea sia stata mia, ma Roger si è accollato tutto l'impegno. Io considero il pensiero la cosa più importante, asserì Mrs. Gibson. Il pensiero è spirituale, mentre l'azione è puramente materiale. Questa frase, raffinata, colse di sorpresa anche colei che l'aveva pronunciata, e in una conversazione come quella che stava avendo luogo, non è necessario definire accuratamente il significato di tutto ciò che si dice. Temo però che i fiori siano arrivati troppo tardi per essere di qualche utilità, continuò Osborne. Ho incontrato Preston la mattina successiva e naturalmente abbiamo parlato del ballo. Mi è dispiaciuto scoprire che era arrivato prima di noi. Ha mandato un solo mazzolino ed era per Cinzia, intervenne Molly, alzando gli occhi dal lavoro. E non è arrivato se non dopo che avevamo ricevuto i fiori da Hamley. Molly colse un'immagine del viso di Cinzia prima di chinarsi nuovamente sul cucito. Quel volto era scarlatto e nei suoi occhi balenava un lampo di rabbia. Sia lei che la madre si affrettarono a parlare non appena Molly ebbe concluso, ma la voce di Cinzia era spezzata dall'ardore e Mrs. Gibson prese la parola. Il bouquet di Mr. Preston era solo una di quelle cosette formali che chiunque può acquistare in una serra e che mi dà sempre l'impressione di non racchiudere alcun sentimento. Preferirei di gran lunga ricevere 2 o 3 mughetti raccolti per me da una persona che mi piace piuttosto che il bouquet più costoso che si possa comprare. Mister Preston non aveva ragione di dire di avervi anticipato, lamentò Cinzia. I suoi fiori sono arrivati proprio mentre stavamo uscendo e io li ho buttati direttamente nel fuoco. Cinzia, amor mio! Esclamò Mrs. Gibson, che fino a quel momento non era venuta a sapere delle sorti di quei fiori. Che idea si farà, Mister Osborne Hamley, di te? Anche se, senza dubbio, posso capirti. Hai ereditato la mia emozione, il mio pregiudizio sentimentale, certo, contro i fiori comprati. Cinzia tacque per un momento, poi disse: Ho usato alcuni dei vostri fiori, Mister Hamley, per adornare i capelli di Molly. È stata una grande tentazione, perché il colore si accompagnava benissimo ai suoi coralli. Ma credo che lei abbia reputato un tradimento rovinare la disposizione del mazzolino. Così devo assumermene l'intera colpa. Della sistemazione dei fiori si è occupato mio fratello, come ho detto, ma sono sicuro che avrebbe preferito vederli sui capelli di Miss Gibson anziché nel fuoco divampante. Mr. Preston ha avuto di certo la peggio. Osborne era piuttosto divertito dall'intera faccenda e gli sarebbe piaciuto indagare un po' più a fondo sulle motivazioni di Cinzia. Non sentì che Molly diceva piano, come parlando tra sé e sé. I miei li ho portati così, come erano stati mandati, perché Mrs. Gibson si intromise cambiando completamente argomento. Parlando di mughetti, è vero che crescono selvatici Harswood? Non è ancora la stagione della loro fioritura, ma quando sarà, penso che dovremo fare una passeggiata laggiù con il pranzo in un cestino, un piccolo picnic, insomma. Vi unirete a noi, non è vero? Rivolgendosi a Osborne. Penso sia un piano incantevole. Potreste cavalcare fino a Hollingford e lasciare qui il cavallo e trascorreremo una lunga giornata nei boschi per poi tornare a casa per cena. Una cena con un canestro di mughetti come centrotavola. Mi piacerebbe molto, disse Osborne, ma forse non sarò a casa. È più probabile che ci sia Roger, credo, in quel periodo tra un mese. Egli stava pensando al viaggio che doveva fare a Londra per vendere le poesie e poi alla corsa a Winchester che si era prefissato alla fine di maggio. Era da tempo il momento deciso per quel piacere, non solo nella sua mente, ma anche nelle lettere scritte a sua moglie. Oh, ma voi dovete essere tra noi! Dobbiamo aspettare Mr. Osborne Hamley, giusto, Cinzia? Temo che i mughetti non attenderanno, osservò l'interpellata. Beh, allora dobbiamo aspettare la stagione del caprifoglio o della rosa canina. A quell'epoca sarete tornato, no? O la stagione londinese offre troppe attrazioni? Non so esattamente quando fioriscono le rose canine. Non lo sapete? Siete un poeta? Non ricordate i versi? Era il tempo delle rose, le cogliemmo mentre passavamo? Sì, ma non specificano il periodo dell'anno che corrisponde alla stagione delle rose. E credo che i miei spostamenti siano guidati più dal calendario lunare che da quello floreale. Fareste meglio a scegliere la compagnia di mio fratello. Lui è pratico nel suo amore per i fiori. Io sono solo teoretico. Questa bella parola, teoretico, implica che siete ignorante? Domandò Cinzia. Naturalmente saremo felici di vedere vostro fratello, ma perché non avere anche voi? Confesso di sentirmi un po' intimidita dalla presenza di un uomo così profondo ed erudito in tutti i campi come vostro fratello. Datemi un po' di piacevole ignoranza, se dobbiamo chiamarla con questa severa parola. Osborne si inchinò. Era molto gratificante per lui sentirsi adulato e vezzeggiato, anche se sapeva benissimo che si trattava solo di piaggeria. Costituiva un gradevole contrasto con la casa che per lui era così tetra. Presentarsi in questa famiglia dove la compagnia di due ragazze simpatiche e il dolce sciroppo confortante dei discorsi della loro madre lo aspettavano sempre, ogni volta che lui avesse voglia di andarle a trovare. Per non parlare della differenza, vivida ai suoi sensi, per quanto poetico egli ritenesse se stesso, tra un salotto pieno di fiori e segni di una presenza femminile, con tutte le poltroncine comode e i tavoli coperti di belle cose. Con il vasto salone di casa sua, dove i tendaggi erano lisi e le sedie disagevoli, e che ormai mancava del tutto dei simboli del passaggio di una donna che potesse conferire grazia alla fredda disposizione dei mobili. E poi i pasti, leggeri e ben cotti, erano di suo gusto e si confacevano meglio al suo delicato appetito rispetto alle vivande opulente e pesanti preparate dai domestici di Hamley Hall. Osborne stava iniziando un po' a temere di scivolare nell'abitudine di porgere visite troppo frequenti alle Gibson, e questo non perché paventasse le conseguenze del suo rapporto con le due signorine. Infatti, non aveva mai pensato a loro se non come a delle amiche. Il fatto di essere sposato era costantemente presente nella sua testa e, ahimè, occupava troppo saldamente il trono del suo cuore perché lui si potesse ricordare che avrebbe potuto essere considerato dagli altri come un possibile marito. Ma occasionalmente gli si presentava con forza il dubbio che forse egli stava approfittando troppo spesso di un'ospitalità che al momento non aveva mezzi per ricambiare. Ma Mrs. Gibson, nella sua ignoranza in merito al reale stato delle cose, segretamente esultava per l'attrazione che lo faceva venire lì così spesso, a trascorrere pigramente le ore nella loro casa e nei loro giardini. Non aveva dubbi che era Cinzia a richiamarlo da loro. E se quest'ultima fosse stata un po' più soggetta alla ragione, la madre avrebbe fatto più frequenti allusioni di quanto si permettesse alla crisi che pensava si stesse avvicinando. Ma ella si controllava alla luce dell'intuitiva convinzione che se la figlia fosse divenuta consapevole di ciò che incombeva e messa al corrente dei cauti e tranquilli sforzi di Mrs. Gibson volti a prevenire la catastrofe, l'ostinata ragazza vi si sarebbe opposta con tutta la sua abilità e il suo potere. Per come stavano le cose, Mrs. Gibson confidava che gli affetti di Cinzia si impegnassero prima di sapere in che stato si trovasse e che in quel caso ella non avrebbe tentato di frustrare il raffinato progetto della madre pur avendolo indovinato. Ma Cinzia era stata coinvolta in troppe varietà di amoreggiamenti, ammirazioni e persino sentimenti appassionati per fraintendere anche solo per un momento la placida e amichevole natura delle attenzioni di Osborne. Lo accoglieva sempre come una sorella fa con un fratello. Fu diverso quando Roger tornò dopo essere stato nominato fellow del Trinity College. La tremante insicurezza, l'ardore malcelato dei suoi modi fecero presto capire a Cinzia con quale tipo di amore dovesse ora avere a che fare. Non lo descrisse con tante parole, no, neanche nei recessi del suo cuore, ma riconobbe la differenza tra l'atteggiamento di Roger e quello di Osborne nei suoi confronti. Molto prima che Mrs. Gibson se ne rendesse conto. Fu Molly, tuttavia, la prima a scoprire la portata dell'attrazione di Roger. La cosa balenò ai suoi occhi attenti la prima volta che li vide dopo il ballo. Da quella sera Cinzia non era sembrata star bene. Si aggirava lentamente per casa, pallida e con gli occhi pesti, e per quanto di solito avesse sempre voglia di moto e di aria fresca, non c'era ora quasi modo di persuaderla a uscire per una passeggiata. Molly osservò questo suo appassire con tenera ansia, ma a tutte le sue domande, se si sentisse sopraffaticata per il ballo, se fosse accaduto qualcosa che l'aveva infastidita, l'altra rispondeva languidamente di no. Una volta Molly fece il nome di Mr. Preston e scoprì che quello era l'argomento che toccava Cinzia sul vivo. Il suo viso infatti si infiammò di energia, tutto il suo corpo mostrò l'agitazione e la fatica repressa. Ma ella pronunciò solo poche parole aspre, che esprimevano tutt'altro che gentilezza nei confronti del gentiluomo, e poi ordinò a Molly di non menzionarle mai più quel nome. Quest'ultima però non poteva immaginare che gli fosse più che intensamente ripugnante per la sua amica, come lo era per lei stessa. Non poteva essere lui la causa della presente indisposizione di Cinzia. Ma tale malanimo durò così tanti giorni senza cambiamenti e alterazioni che Mrs. Gibson se ne accorse e Molly si sentì definitivamente a disagio. Mrs. Gibson considerava i silenzi e l'angore di Cinzia la naturale conseguenza dell'aver danzato con chiunque l'avesse invitata la sera del ballo. Compagni, i cui nomi rientravano nel libro rosso, non avrebbero causato neanche la metà di quell'affaticamento, secondo il giudizio della donna, e se Cinzia fosse stata bene del tutto, molto probabilmente avrebbe sottolineato il discorso della madre con una delle sue espressioni sarcastiche. Quando a quel punto Cinzia mancò un'altra volta di reagire, Mrs. Gibson divenne impaziente e l'accusò di essere pigra e persa in fantasticherie. Alla fine, e in parte su invito di Molly, si fece appello a Mr. Gibson e si richiese un esame medico della presunta ammalata, cosa che Cinzia detestava sopra ogni cosa, specialmente quando il verdetto fu che non c'era chissà quale problema. Ma sussistevano solo una generale mancanza di energia e una depressione della salute dello spirito, a cui si sarebbe rapidamente rimediato con dei tonici e senza insistere a farla sforzare.